In collegamento con Eleonora Mazzoni per parlare del Suole difettosi, che sarà in scena lunedì 6 marzo alla Casa Internazionale delle Donne. Eleonora, ben ritrovata su queste frequenze. Ah, grazie. Allora, per chi ci ascolta, si tratta del tuo primo romanzo, giusto? Sì, che è uscito nel 2012, ne avevamo parlato anche lì da voi, con per Einaudi. Sì. Il primo romanzo d'esordio, sì. Allora, qual è il racconto? Ma il racconto del romanzo è appunto una donna, Carla, che ha quasi 40 anni, ha 39 anni e mezzo, desidera ancora un figlio che non riesce a venire al mondo e quindi è la ricerca di questo figlio attraverso tentativi naturali, anche tentativi con fecondazione assistita. E testo teatrale, che è assolutamente ispirato al romanzo, è stato per me un modo di rilavorare sul testo, quindi è stata un'occasione da questo punto di vista. E in realtà la protagonista è sempre Carla, ma in realtà la storia arriva attraverso 7 personaggi, quindi c'è Carla, c'è l'amica, c'è la nonna, c'è la madre, c'è il compagno, c'è l'infermiera, c'è la dottoressa, e quindi si passano il testimoni in questa storia che ho potuto approfondire. Ad esempio l'amica Katia è una ragazza giovane, ma è lesbica nel testo teatrale, sì. Quindi questo non c'era ad esempio nel romanzo, però mi ha dato modo di poter raccontare anche un altro mondo, un'altra fetta di mondo. Senti Eleonora, in scena una sola attrice. Una sola attrice, però che è attrice, nel senso che ho potuto fare questo lavoro perché c'era Emanuela Grimalda, sì. E in effetti lei mi ha chiesto i diritti del romanzo, e quando abbiamo poi coinvolto Serena Sinigaglia nella regia, Serena ha dato l'idea di fare non un unico personaggio, cioè quindi non una narrazione attraverso un solo punto di vista, ma 7 personaggi. E questo però è stato anche possibile perché sapevo, addirittura il primo personaggio, l'infermiera, che non c'è nel romanzo così, l'ho costruito proprio, conoscendo molto bene Emanuela come attrice, l'ho costruito proprio su di lei, sui suoi tempi, anche il suo tipo di comicità. Poi lo spettacolo è leggero, ma è anche come dire drammatico, ecco. Sì. Però il primo personaggio, l'infermiera, l'ho proprio costruito su di lei, sui suoi tempi, sulla sua voce. Benissimo. Senti, allora ricordiamo poi l'appuntamento, però ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più anche sul percorso in Italia che sta facendo? Bisogna guardare la pagina su Facebook Le Difettose. Sì. E c'è la pagina mia, diciamo, sul romanzo, ma poi si vede accanto c'è anche proprio la pagina sullo spettacolo, e lì cerchiamo di dire e dare le date che ci sono, sì. Per cui direi che forse la pagina Facebook è il punto di riferimento migliore. Ok. Lunedì ci sarai anche tu? Sì, ah. Sì, almeno a Roma, no, l'ho seguita a Milano e a Roma, e al debutto al Festival della Mente di Sarzana ancora quasi 2 anni fa. Bene. Allora ricordiamo l'appuntamento lunedì 6 alla Casa Internazionale delle Donne, Le Difettose di Eleonora Mazzoni, che sarà presente. Sì. Alle ore? 21. La prevendita già c'è, il biglietto costa 12 euro, quindi è un biglietto democratico, come dovrebbe essere sempre il teatro, secondo me, e quindi spero che vengano molti ascoltatori della radio anche. Bene. Allora io t'abbraccio, ci risentiamo presto. Sì, va bene, grazie Federico. Ciao, Leonora, un bacio, ciao. Ciao.